Disagi in tutte le città. Camusso attacca Lupi per la precettazione del comparto ferroviario. Una scelta politica grave, si apre un contenzioso, dice. L'inchiesta su Roma, due arresti per presunti collegamenti con l'Ndrangheta, l'ipotesi di affari nella gestione del mercato e ancora una volta dei migranti. In calo anche oggi la borsa di Atene, Tsipras invia i suoi uomini a Londra per cercare di calmare gli investitori. Nuova asta BCE, assegnati alle banche 130 miliardi. Compiti a casa, gli studenti italiani ne fanno più di tutti gli altri europei, 7 ore a settimana contro le 4 che secondo l'organizzazione sarebbero ottimali. Autovelox, a Milano c'è un nuovo caso, ma che potrebbe toccare tutta Italia. Secondo il Ministero, migliaia di multe sarebbero irregolari, interpretazione che il Comune contesta. Formula 1, la McLaren sceglie Alonso come prima guida. Per il calcio, la Roma è fuori dalla Champions League. Garcia dice nessun rimpianto, siamo stati sfortunati. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, Effetto Giorno, @radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Durante la trasmissione c'è anche il numero di SMS, 349-238-6666. Sulle vicende di Roma arriveremo tra un attimo, l'inchiesta su Mafia Capitale, ma prima iniziamo dallo sciopero generale. Il ministro dei trasporti ha disposto la precettazione, come sapete, per il comparto ferroviario, ve lo abbiamo raccontato anche ieri, e oggi Susanna Camusso, leader della CGIL, reagisce, parla di una scelta politica unilaterale e grave, aggiunge si apre un contenzioso. Noi intanto facciamo un quadro di cosa si ferma, per quanto ne sappiamo, nella giornata di domani. Le manifestazioni uniranno 50 piazze su tutto il territorio nazionale. A Torino parlerà Susanna Camusso, a Roma Carmelo Barbagallo. 8 ore di sciopero generale che investirà tutti i settori. Dunque, per chi non andrà a manifestare, per chi ha pensato di manifestare solo con il pensiero, per chi non ci pensa proprio allo sciopero, si preannuncia una giornata difficile. Come di consueto, ore complicate per chi si sposta con il trasporto pubblico. A Milano l'agitazione inizia alle 19 e terminerà a fine corsa. A Torino lo slalom sarà più impegnativo, stop del servizio tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 20. A Napoli tutti a piedi o in macchina tra le 9 e le 17. Stesso schema per Roma, sperando che non ci si metta anche la pioggia. Chi deve spostarsi in aereo faccia attenzione a partire prima delle 10 o dopo le 18, mentre le ferrovie non dovrebbero fermarsi. La categoria è stata precettata, anche se i sindacati denunciano di aver appreso della precettazione dai telegiornali e che nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dal Ministero dei Trasporti. Per il resto, se sarete riusciti a spostarvi per tempo, non dimenticate che anche nelle scuole potrebbero esserci problemi. Potrebbe far comodo una babysitter, così come in tutti gli uffici pubblici. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo adesso ai nuovi arresti nell'indagine sulla criminalità organizzata a Roma. Sono considerati gli ufficiali di collegamento fra Mafia Capitale e l'Ndrangheta calabrese, Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero, gli ultimi due arrestati nell'inchiesta Terra di Mezzo. Accusati entrambi di associazione mafiosa, i due avrebbero gestito i rapporti fra alcune cooperative di Salvatore Buzzi e la cosca Mancuso di Limbadi, attiva nel Vibonese. Secondo gli inquirenti, i due sodalizi criminali avevano interessi comuni. A luglio Buzzi e Massimo Carminati avrebbero deciso di affidare la gestione di una appalto per la pulizia del mercato esquilino di Roma ad un imprenditore vicino al clan calabrese. In cambio l'associazione criminale romana avrebbe svolto le sue attività in Calabria godendo della protezione dell'Ndrangheta. Oltre ai due arresti stamattina, i carabinieri della Rossa hanno eseguito anche una serie di perquisizioni nelle province di Roma, Latina e Vibo Valentia. Nella capitale la Guardia di Finanza ha invece sequestrato altre due cooperative riconducibili a Buzzi, la 29 giugno Servizi e la Formula Sociale, con un giro d'affari di circa 15 milioni di euro all'anno. In mattinata sono iniziate anche le udienze davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà decidere sulle istanze di scarcerazione presentate da un gruppo di indagati, fra i quali lo stesso Carminati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di tutte queste vicende torneremo a parlare tra poco, perché nei giorni scorsi sono circolate voci di contatti di questa organizzazione con i servizi segreti o con apparati dello Stato. Ne parleremo col presidente del COPASIR, il Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, e poi parleremo delle nuove norme anticorruzione che si ipotizza che vengano approvate domani dall'esecutivo col presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Veniamo adesso però all'economia con i dati innanzitutto sulla produzione industriale che è scesa dello 0,1% rispetto a settembre, l'attesa era per una crescita dello 0,3%, dati dell'Istat che sottolinea anche come rispetto a ottobre 2013 il calo sia del 3%. Intanto anche per supportare l'economia oggi la seconda tranche dell'assegnazione di liquidità alle banche da parte della Banca Centrale Europea, seconda tranche appunto per sono prestiti legati al finanziamento dell'economia reale. Per capire com'è andata ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro. Sì, buongiorno. Sono circa 300 banche che hanno chiesto liquidità alla BCE per un importo di circa 130 miliardi di euro, quindi è andata meglio della prima asta quando le banche avevano richiesto solo 82 miliardi, complessivamente si arriva a 212 e molto al di sotto di quello che la BCE aveva offerto, che erano 400 miliardi di euro nelle due aste complessivamente, il che potrebbe voler dire che le banche sono ancora riluttanti a prendere questa liquidità perché non sono sicuri di poter fare impieghi all'economia reale. Siamo comunque molto lontani dagli obiettivi della BCE di espandere, proprio per combattere la deflazione, la crescita stagnante, di espandere il proprio bilancio di 1.000 miliardi di euro, e quindi il risultato di oggi avvicina la possibilità che poi la BCE debba acquistare titoli di Stato, e questo sappiamo che è un'ipotesi molto contestata soprattutto dai tedeschi, se ne parlerà alla riunione del 22 gennaio. Allora, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, ma naturalmente c'è un'altra vicenda che sta dominando i temi di politiche economiche europee, di economia europea in queste ore, ed è la vicenda della Grecia. Ancora oggi in calo la borsa di Atene dopo i crolli dei giorni scorsi, un'incertezza politica che permane, il premier Samaras che accusa Tsipras e la sinistra di terrorizzare gli investitori, e Tsipras che cerca di rassicurarli. Vittorio Darold, buongiorno, ci è riuscito? Sì, assolutamente no, nel senso che hanno mandato due emissari alla City di Londra, appunto due consiglieri economici del gruppo dirigente di Syriza, la formazione della sinistra radicale greca, dove hanno in qualche modo illustrato il possibile piano in caso di vittoria alle elezioni anticipate. Questo piano economico prevede la non pagamento del debito, anzi una richiesta di ristrutturazione del debito, così come avvenne nel 1952 a favore della Germania, quindi con un taglio del 62% di tutto l'ammontare, che ricordiamo è di 330 miliardi. Una eventualità che ha fatto sussultare naturalmente i 35 banchieri alla City di Londra, che hanno cominciato ad avere timore e alla successiva richiesta di nuove informazioni hanno avuto appunto ulteriori dettagli che prevedono la fine dell'austerity e quindi un rilancio delle spese del governo. Tutti elementi che hanno fatto naturalmente molto timore ai banchieri e agli hedge funds. Grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti. Vi aggiorniamo anche su come stanno andando i mercati. In questo momento la borsa di Atene cede circa il 3% e sta trainando al ribasso anche le altre piazze finanziarie europee un'altra volta. Il FTSE MIB cede lo 0,6%, il FTSE All Share lo 0,62%. Come sempre alle 13.30 approfondiremo nello spazio di mercati, perché c'è da parlare anche del caso Fiat, che in questo momento perde il 7,29%. Veniamo ad un'importante operazione antimafia stamattina che ha coinvolto anche gli Stati Uniti. Manette, un esponente dei Gambino. C'è anche Francesco Palmeri, numero 3 della cosca mafiosa dei Gambino, una delle più potenti famiglie di Cosa Nostra a New York, tra gli 8 italiani arrestati perché ritenuti responsabili di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla tentata estorsione e aggravata dalle modalità mafiose. Palmeri, detto Ciccio l'americano, era appena rientrato negli States di ritorno dall'Italia, dove era venuto per riscuotere un credito di 30 anni fa del valore di 1 milione di euro vantato dalle famiglie americane nei confronti di Lorenzo Marsiglio. L'imprenditore lucano aveva contratto il debito in un momento di difficoltà economica per la sua impresa, la Sud Elettra Spa, azienda leader in Italia e all'estero nel settore energetico. Secondo l'indagine della Procura di Potenza, Palmeri si sarebbe presentato sotto falso nome in Italia dall'imprenditore Marsiglio per portare il messaggio degli amici americani. Il boss è stato catturato in un appartamento di Brooklyn dove abitava senza risultare registrato. Ora per lui si attende l'estradizione. Nel frattempo all'aeroporto di Milano Malpensa veniva fermato prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti Giovanni Grillo, detto John, un altro personaggio chiave dell'inchiesta insieme a Salvatore Farina, figlio del defunto boss di Cosa Nostra Ambrogio Farina, imputato per l'omicidio del giudice Ciaccio Montalto. L'indagine ha documentato ancora una volta l'esistenza di un consolidato asse criminale tra i sodalizi mafiosi operanti negli Stati Uniti e le organizzazioni radicate sul territorio italiano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo spesso dell'OCSE per i dati economici che fornisce, in effetti lo ha fatto anche oggi. Il PIL dell'Italia nel terzo trimestre 2014 è calato dello 0,1% rispetto ai 3 mesi precedenti, ci dice, collocando il nostro paese in fondo alla classifica tra i membri del G20 davanti al solo Giappone, che è sceso di 0,5 punto percentuale. E però parliamo dell'OCSE adesso per i dati che ha fornito sui compiti a casa per gli studenti italiani, che a quanto pare sono veramente troppi. Gli studenti italiani non sono tra quelli più agevolati nel trovare un lavoro finito il percorso di studi. In compenso sono tra quelli che sgobbano di più sui libri una volta tornati a casa da scuola. Risulta infatti da un rapporto OCSE che i 15 anni della penisola trascorrono in media quasi 9 ore la settimana a fare compiti, contro una media OCSE di 4,9 ore. È il dato più elevato tra i paesi dell'area, anche se rispetto al 2003 i liceali italiani hanno tagliato di quasi 2 ore il tempo dedicato allo studio. I veri stacanovisti si confermano comunque gli studenti non OCSE di Shanghai, che dichiarano di dedicare i compiti a casa almeno 14 ore alla settimana. Dall'altra parte, a chiudersi meno di tutti in cameretta a studiare sono i giovani finlandesi e coreani, che con una media di meno di 3 ore a settimana svettano comunque nelle classifiche sulle competenze scolastiche. La prova che una maggiore mole di compiti a casa non coincide per forza con una maggiore preparazione. Secondo l'OCSE, 4 ore a settimana rappresentano la quantità giusta per consolidare quello che si è scoperto e sperimentato in classe, anche perché, sottolinea sempre l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, andando oltre il beneficio relativo si assottiglia. Troppo lavoro a casa, sottolinea l'OCSE, avvantaggia chi può contare sul sostegno della famiglia e chi dispone di ambienti domestici adeguati e tranquilli. Dunque, se da un lato i compiti costituiscono un aiuto ad imparare di più e meglio, dall'altro rischiano di rafforzare le disparità socio-economiche. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport ora, come nelle attese, sarà l'ex pilota della Ferrari Fernando Alonso a guidare una McLaren a partire dalla prossima stagione di Formula 1, lo ha annunciato la scuderia inglese su Twitter, spagnolo che sarà affiancato da Jenson Button, confermato anche per il 2015, ma vogliamo parlare anche di calcio. Ieri abbiamo raccontato della Juve che passa il turno, oggi della Roma che si becca un 2-0 dal Manchester City ed è fuori dalla Champions. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone. Buongiorno a tutti. Sì, 2-0 in casa all'Olimpico, fino al 60esimo la Roma sullo 0-0 sarebbe stata qualificata con il Bayern che stava battendo e poi avrebbe battuto 3-0 il CSKA di Mosca. Invece ha preso questi due morsi al 15esimo secondo tempo Nasri e poi Zabaleta, ma quando i giochi erano mai fatti al 41esimo. Ma forse per la Roma è il giorno delle critiche, dei mea culpa, perché ha bucato un doppio match ball a Mosca prendendo quello sciagurato gol all'ultimo secondo della partita e poi ieri sera al termine di una gara che la Roma forse avrebbe potuto interpretare con maggiore cattiveria. Senza contare, caro, il 2-2 col Sassuolo proprio nel giorno, esatto, dello stop della Juve, insomma, esatto. Quindi proprio non è un momento particolarmente brillante. Era stato criticato Garcia anche per l'eccessivo turnover nella gara con il Sassuolo, ma tutti noi a dire evidentemente avevano il City nella testa, questa era la gara che la Roma, anche per ragioni economiche, perché un passaggio del turno in Champions League poteva valere una dozzina di milioni di euro per i giallorossi. Ebbene, tutti a dire questo, la Roma che abbiamo visto ieri sera non è, ha approcciato molto bene la partita, ma poi non è stata convincente fino in fondo. Viene l'impressione che rimane quella di una squadra che ancora deve diventare grande, deve provare e riuscire a vincere una grande partita come questa. Roma che andrà in Europa League, un'Europa League che potrebbe diventare territorio di caccia per le squadre italiane. Ne aspettiamo questa sera, speriamo tutti, 4 al passaggio alla seconda fase in Europa League. Inter, Napoli e Fiorentina sono già qualificate, aspettiamo anche il Torino che dovrà vincere a Copenaghen contro una squadra che è già eliminata. Se così fosse, un bel unplay in Europa League, si aggiungerebbe la Roma, la Juventus in Champions League, insomma avremo 6 squadre oltre le colonne d'Ercole della prima fase delle Coppe Europee, in fondo questo non è male. Grazie Carlo, si tornerà a parlarne naturalmente in tutti i convocati a partire dalle 14, toccava Carlo Genta il tema del valore economico della Champions e in effetti la Roma questa mattina in borsa è tra i titoli peggiori, cede il 5,5%, parliamo di ciclismo adesso. La notizia con qualche distinguo è una bella notizia. Vincenzo Nibali, il corridore siciliano vincitore dell'ultimo Tour de France, l'anno prossimo potrà partecipare sia alla corsa francese che al Giro d'Italia. E lo potrà fare perché ieri sera, dopo una lunga attesa, l'Unione Ciclistica ha dato il via libera all'Astana per poter partecipare agli appuntamenti più importanti del circuito mondiale. Perché i dubbi sull'Astana? Perché il colosso kazako era sotto esame per il solito cancro che corrode da anni il ciclismo, cioè il doping. Oltre a 5 casi di positività, sulla Astana grava anche un'ombra molto pesante, quella d'aver avuto una frequentazione pericolosa con Michele Ferrari, il medico inibito dal CONI e dall'Agenzia Mondiale Antidoping per aver seguito Lance Armstrong, l'atleta americano privato di 7 tour per le note vicende. I dubbi sul team kazako, sia chiaro, restano tutti, però fa piacere che un corridore come Vincenzo Nibali, finora campione anche di pulizia onestà, abbia fatto pendere la bilancia a favore del via libera. Se c'è lui ci possiamo fidare, hanno detto i dirigenti dell'UCI. Della Astana, però, e lo diciamo noi, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Inchiesta su Roma, 2 arresti per presunti collegamenti con l'Andrangheta, l'ipotesi di affari nella gestione del mercato e dei migranti. Domani lo sciopero con oltre 50 manifestazioni, Camusso attacca lupi per la precettazione del comparto ferroviario. Continua a spaventare i mercati, Atene che cede oggi il 3%, negativa anche la borsa di Milano dello 0,7%. Compiti a casa, gli studenti italiani ne fanno più di tutti gli altri europei, 7 ore a settimana contro le 4 che secondo l'organizzazione sarebbero ottimali. Giacomo Stucchi è presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Sicurezza, torna ai nostri microfoni. Stucchi, benvenuto. Buongiorno. Con lei vogliamo parlare ancora dell'inchiesta Mafia Capitale, perché in questi giorni sono circolate ipotesi e notizie di coperture che avrebbe ricevuto Massimo Carminati da apparati dello Stato, ma prima di parlare con lei, di farle una domanda su questo, c'è una cosa che vogliamo far ascoltare ai nostri ascoltatori, ed è un'intervista realizzata dalla nostra Raffaella Calandra con Antonio Mancini, ex Accattone, questo era il suo soprannome, oggi collaboratore di giustizia, che faceva parte della banda della Magliana, e dice: conosco Massimo Carminati da quando aveva tutti e due gli occhi buoni. Sentiamo un brano di questa intervista, poi andrà completa alle 21.30 di sabato in Storiaccia e poi parliamo con Stucchi. Molto probabilmente sono venuti meno quelle protezioni di cui lui ha sempre goduto. Politiche, di servizi segreti, la finanza. In questo momento credo che ci siano dei cambiamenti, così come è avvenuto, ricorda, le stragi in Sicilia che insomma portarono degli sussolamenti. E questa è la stessa cosa, anche se con danni minori a livello di sangue, diciamo, no? A me non mi meraviglia che Alemanno fosse nelle mani di Carminati. Erano amici, anche se lui dice che non lo conosce. Non è possibile, perché se conosci l'Attarulo quell'altro ragazzo di destra che ha avuto un impiego al comune, come puoi conoscere Lattarulo e non Carminati, che è più importante di Lattarulo? Carminati non serve più, come noi non serve, noi della, perché lei sa, la Maiana, no? Era composta da due fazioni, i testaccini e quelli della Maiana, no? Esatto. Quando loro avevano cambiato atteggiamenti, cioè da criminali erano diventati imprenditori, è nata la rottura con noi della Maiana, eravamo scomodi per loro, noi eravamo il lato sporco. Questa intervista appunto ad Antonio Mancini, detto l'accattone, oggi collaboratore di giustizia, come vi dicevo, la potete riascoltare, la potete ascoltare integrale alle 21.30 di sabato in Storiace. Dunque, Giacomo Stucchi ha sentito che anche Mancini parla di coperture per Carminati a parte dei servizi segreti, a voi non risulta nulla? No, il problema è che prima di tutto nell'indagine coordinata da Pignatone non risulta iscritto e indagato nessuno degli appartenenti ai servizi, questo ci rimane un dato di fatto. Dopodiché, se noi parliamo di esistenza di personaggi che vengono individuati di volta in volta come appartenenti ai servizi, confidenti dei servizi, fonti dei servizi, servizi deviati, dobbiamo capire che dobbiamo dare un volto, un nome a queste persone, perché sennò restiamo nel campo delle ipotesi. Naturalmente, per fugare ogni dubbio, il Comitato cosa ha fatto? Fin da settimana scorsa ha chiesto un'informativa urgente al direttore dell'AISI Generale Esposito e proprio nella giornata di ieri abbiamo chiesto di essere aggiornati costantemente su quelli che sono, diciamo così, gli sviluppi di tutte le informazioni che escono, qualora dovesse verificarsi che qualcuno dell'agenzia negli anni passati magari abbia, diciamo così, preso parte a qualche operazione, è stato coinvolto a qualche operazione che viene oggi attenzionata dalla magistratura. Ad oggi questo è escluso, lo ripeto, però è nostra intenzione verificare tutto. Io ritengo che per quanto riguarda quell'ambiente particolare, sicuramente erano più le forze dell'ordine ad essere interessate a controllare quello che stava accadendo, quindi ad avere dei confidenti. Però non possiamo escludere nulla. Detto questo, lì si tratta di una branco di delinquenti che facevano operazioni sulla pelle dei cittadini, spesso sui bisogni primari di assistenza dei cittadini stessi. Quindi in questo contesto va inquadrato e va fatta piena luce, perché ogni volta che si parla di forze dell'ordine corrotte piuttosto che di servizi deviati, io sento un po' la puzza che si voglia deviare l'attenzione rispetto ai reali responsabili di certi comportamenti. Se io detto in altre parole, se c'è i nomi, escano, vengano fatti, si controlla, se no noi comunque faremo tutti i nostri accertamenti e siamo un comitato di controllo che lavora in modo serio per verificare il rispetto delle norme, delle leggi nell'operato dei nostri agenti nei servizi. Al momento, quindi, comunque non risulta nulla. Stucchi, al momento, ma non lo dico io, mi rifaccio a quello che dice il procuratore Pignatone. Non c'è nessun appartenente ai servizi che è stato indagato. E però ci sono anche delle intercettazioni, quelle ne avrà letto sicuramente Stucchi, ci sono anche delle intercettazioni che parlano di fatto di una ripulitura di denaro che, insomma, che era denaro di fatto dei nostri uomini dei servizi all'estero, che veniva ripulito in Italia da questa organizzazione. Ne avrà letto, immagino. Sì, no? Assolutamente. Se lei è in grado, come io naturalmente ho chiesto, di avere una prova di tutto questo, io posso dire che la notizia è vera, ma siccome anche questa intercettazione probabilmente riporta dei fatti, dei sentiti dire, un qualcosa che nessuno mai ha avuto modo di verificare di persona, quando poi la trasmette via telefono a un altro soggetto, anche qui siamo nel campo, tra virgolette, delle ipotesi. Questa cosa non vuol dire che non vadano a verificare, anzi vanno verificate e le stiamo verificando, però non prendiamo per buono tutte le intercettazioni di soggetti questo, che, lasciatemi dire, non sono sicuramente gli stinchi di sangue. Sì, no, allora questo sicuramente. E naturalmente spesso, io aggiungo questo, parlavano sapendo di essere intercettati. Senta, Stucchi, ultima domanda che le voglio fare riguarda invece il passato e non nello specifico questa inchiesta. Avete intenzione di indagare, di capire qualcosa di più se Carminati in passato o qualcuno degli uomini di questa organizzazione, ma mi riferisco a Carminati in particolare, avesse ricevuto delle coperture e avete una qualche evidenza di questo? Guardi, questo l'abbiamo già chiesto e ci stiamo già lavorando. Ci state già lavorando su, sulle coperture che può aver avuto in passato Carminati? Sui contatti, copertura è un termine secondo me inappropriato. Quantomeno i contatti, intanto i contatti e poi si vede, dice lei, se coperture ci sono state o no, no? Esatto. Grazie Giacomo Stucchi, deputato della Lega Nord, presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. E saluto, e restiamo in parte in tema, saluto Rodolfo Sabelli, presidente dell'ANM. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. L'Associazione Nazionale Magistrati. Si sta ipotizzando, Sabelli, un innalzamento delle pene, forse approvato già domani in Consiglio dei Ministri, un allungamento dei tempi di prescrizione. Vi sembra che la strada sia giusta per la lotta alla corruzione? Ma guardi, noi non siamo contrari a un intervento sulle pene, il problema è che certo se tutto dovesse risolversi soltanto nell'aumento del minimo o anche nell'aumento del massimo delle sanzioni previste per la corruzione, il rimedio non sarebbe quello che ci attendiamo e non sarebbe completamente efficace. Perché, e cioè che cosa bisognerebbe fare secondo lei? Anzitutto restituire alla giustizia, in questo caso alla giustizia penale, la sua piena efficienza, quindi intervenire sui meccanismi processuali. Se poi si pensa ad un aumento delle pene massime per ottenere l'effetto di aumento della prescrizione, allora diciamo che lo strumento non è quello corretto, perché si dovrebbe intervenire in realtà sul sistema della prescrizione, non è che si può di volta in volta ritoccare le pene massime di questo o di quel reato a seconda della maggiore evidenza, no, che un fenomeno criminale assume per ottenere poi l'aumento dei termini di prescrizione. Con riferimento poi alla corruzione in particolare, bisognerebbe fare quello che non si è fatto con la riforma del 2012, quindi partendo dalla constatazione del collegamento che c'è, non mi riferisco ad indagini in corso che poi troveranno la loro verifica dibattimentale, ma a quello che anche sentenze definitive ormai hanno evidenziato come momento tipico di questi fenomeni criminali, cioè il collegamento fra criminalità organizzata e corruzione, allora bisogna anche pensare a mutuare dagli strumenti di aggressione processuale, di aggressione alla criminalità organizzata, quelle soluzioni come i meccanismi premiali, come cause di non punibilità, circostanze attenuanti, quindi riduzioni di pena, ma perché no anche attività sotto copertura, come previsto già ad esempio dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003, questo per far sì che la lotta alla corruzione assuma quella effettività che è richiesta dalla gravità del fenomeno, ma anche da tutti i principi internazionali. E a proposito di questo, la confisca dei beni, l'ipotesi di introdurre la confisca dei beni anche in questi casi le sembra un'ipotesi valida? Ma guardi, vedremo quali saranno i testi che verranno fuori dal Consiglio dei Ministri. In realtà la confisca è già prevista, il reato di corruzione già consente degli interventi patrimoniali reali, non so ora esattamente a che cosa dove si fa riferimento. Dove voglia andare il governo, sì. Vedremo dove vorrà andare il governo. Senta, siete stati molto duri, Sabelli, avete detto a Renzi basta retorica. Ma guardi, noi non, vede, la nostra prospettiva non è quella di fare polemica o di innescare meccanismi di contrasto alla magistratura associata contro il governo, non è questo, anzi, quello che serve è un atteggiamento completamente diverso, cioè un'azione condivisa, perché tutte le istituzioni devono fare la loro parte. E certo la magistratura tante volte viene accusata di fare supplenza, esattamente quello che noi non vogliamo, però bisogna anche uscire dalla logica di attesa, no? Quando si dice anche qualche volta con finto ossequio, ma noi rispettosamente attendiamo le sentenze definitive. E come già altre volte abbiamo detto, la magistratura non è il cane da guardia della democrazia, anche perché i piani di responsabilità sono diversi, c'è la responsabilità penale, ma c'è quello dell'etica pubblica, c'è la responsabilità politica, c'è la responsabilità amministrativa, ognuno faccia la propria parte. Grazie Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Noi ci fermiamo per una pausa, ci ritroviamo per la borsa e poi nella seconda parte andremo su due temi, quello degli autovelox a Milano. Ci sono 710.000 multe elevate nell'ultimo periodo che, da quel che abbiamo capito, potrebbero essere irregolari. Ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nell'inchiesta su Roma ci sono due arresti per presunti collegamenti con l'Ndrangheta. Domani dovrebbero essere approvate le nuove misure contro la corruzione. Domani c'è anche lo sciopero con oltre 50 manifestazioni in tutta Italia. La Camusso attacca Lupi per la precettazione del comparto ferroviario. Una scelta politica grave, dice. Compiti a casa, gli studenti italiani ne fanno più di tutti gli altri europei, con 7 ore a settimana almeno contro le 4 che secondo l'organizzazione sarebbero ottimali. Autoverox, a Milano c'è un nuovo caso, ma che potrebbe toccare tutta Italia. Secondo il Ministero migliaia di multe sarebbero irregolari. Interpretazione che il Comune contesta. Ne parleremo tra poco, ma prima la borsa. Borse in diretta. E non era iniziata male in realtà la giornata, con guadagni intorno al 0,5%. E poi ancora evidentemente le vicende greche stanno pesando, e forse anche l'asta della Banca Centrale Europea, che non è andata forse come il mercato si aspettava. Comunque Milano giù di 0,5% sul FTSE MIB, dello 0,6% sul FTSE All Share, mentre Atene appunto perde circa il 3%. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ho dato interpretazione corretta o sbagliata? Sì, come dicevi, le borse erano partite bene, poi è stato un ammontare deludente delle richieste di finanziamenti alla Banca Centrale Europea da parte delle banche, che ha cambiato verso agli indici dei mercati azionari, a pesare, come dicevi, anche un nuovo ribasso della borsa di Atene che cede oltre il 4%. E a pesare su Milano c'è anche un altro titolo che sta cedendo parecchio, è Fiat, il 7,5% in questo momento, e si tira dietro Exor, la controllante, -2,92%. Sì, Fiat Chrysler si sta allineando sostanzialmente ai valori formulati dal gruppo per l'emissione di 100 milioni di nuove azioni, saranno emesse a $11, e sulle condizioni del prestito convertendo. La cessione del ribasso del titolo del 7,2% a €9,1 si avvicina ai valori di emissione dei nuovi titoli. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È in studio con noi Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Ciao, benvenuto Maurizio. Grazie, buongiorno. Per parlare di autovelox, perché ci sono migliaia di multe elevate ultimamente nel comune di Milano che secondo il Ministero dei Trasporti sono irregolari, e chissà qual è l'estensione sul resto del territorio italiano, forse incalcolabile. Nessuno Maurizio può saperlo. Ci spieghi come funziona, anche se da quel che ho capito è una questione un po' tecnica, sì, però può aiutare anche i nostri ascoltatori, sì, che molto brutalmente volessero contestare. Esatto, allora diciamo che il problema si è posto per i nuovi autovelox di Milano, però può riguardare qualsiasi tipo di infrazione al codice della strada, perché il problema non sta nell'autovelox ma sta nel tempo di notifica. Noi sappiamo che per il codice della strada c'è la regola generale, poi con varie eccezioni, ma la regola generale è che devono passare al massimo 90 giorni per arrivare alla notifica, altrimenti va tutto in prescrizione. Cosa succede? Il problema sta nel conto di questi 90 giorni, perché il codice della strada dice che vale la data di accertamento, che per tutte noi persone normali sembrerebbe la data dell'infrazione, cioè io faccio una cosa, tu me l'accerti sul momento e poi mi mandi il verbale dopo al massimo 90 giorni. Nel caso di Milano cosa succede? Il comune dice di avere troppi verbali da esaminare, troppo lavoro negli uffici, tutto ingolfato, e quindi dice che la data di accertamento è quella in cui il vigile materialmente in ufficio guarda la foto dell'autovelox, dice sì, eri proprio tu, e ti manda il verbale. Questa interpretazione è alquanto ardita, diciamo che già lo stabilì la Cassazione, la Corte Costituzionale, chiedo scusa, nel 96, e adesso il Ministero dell'Interno prima e ieri il Ministero delle Infrastrutture, per bocca addirittura del Ministro, hanno confermato questa interpretazione, e quindi di fatto dovrebbe cascare tutto. E quindi fammi capire, se ho davanti una multa, che cosa devo guardare? Devo guardare la data nella quale ho commesso l'infrazione. Esatto. La data nella quale, che altra data devo guardare? Allora, la data in cui il verbale viene affidato al servizio postale, perché la data di notifica è quella. Poi il servizio postale ci può mettere 2 giorni, può metterci una settimana. E tra queste due date deve esserci non più di quanto? Non più di 90 giorni. Se nel frattempo l'auto non ha cambiato proprietario, oppure se magari non è un'auto a noleggio per cui la multa è arrivata al proprietario precedente. Nella situazione normale di io che ho commesso l'infrazione e sono proprietario dell'auto, devono esserci questi 90 giorni, non di più. Quante sono? 700.000 le multe a rischio a Milano, ci sembra di aver capito? Purtroppo dati affidabili non ce ne sono, però è un dato compatibile, perché comunque le multe sono state davvero tante, Quello che bisogna guardare, allora il comune si è come dire cautelato scrivendo nel verbale che la data di accertamento per loro è una data diversa da quella dell'infrazione, lo hanno proprio spiegato nel verbale, che il vigile ha visionato il fotogramma in data successiva, e quindi dove c'è questa discrasia e vengono superati i 90 giorni totali, allora lì si può fare ricorso. Grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per questi chiarimenti, ed è una vicenda sulla quale torneremo, perché anche su questo si basano i conti dei comuni e non è poco. Alex Corlazzoli, maestro di scuola primaria, giornalista, blogger del Fatto Quotidiano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, apprendiamo oggi dall'Ocse che noi siamo quelli che in Europa fanno più compiti a casa in assoluto, quinti in assoluto nell'area OCSE, e però quelli che ne fanno di meno, ossia i finlandesi e i coreani, sono quelli che hanno dei risultati migliori, gli studenti naturalmente. Che dice? Mi fa un po' sorridere questo dato, bisognerebbe farlo leggere proprio a tutti gli insegnanti, soprattutto quelli delle scuole medie, perché il ritornello, il mantra è sempre compiti e voti, voti e compiti, e allora forse è venuta l'ora veramente di cambiare un po', di cambiare. Soprattutto questo dato va di pari passo con il dato di Save the Children di qualche giorno fa, dell'Atlante dell'infanzia, dove dice invece che l'84% nell'ultimo anno non è dato un concerto, il 73% non ha visto un sito archeologico, il 47% non ha letto, cioè, neanche lei dice hanno troppi compiti a casa e quindi non fanno niente di tutto ciò. Sa cosa faccio io per i compiti delle vacanze di Natale ai miei alunni? Io faccio scrivere sul diario due righe: viaggiate, viaggiate, viaggiate, visitate un museo, leggete un libro e andate al cinema, senza vedere un cinepanettone. E poi verifico che l'abbiano fatto davvero. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ritornare a far appassionare i nostri ragazzi a un libro, a un sito archeologico, a vedere le città, a capire le nostre città. Non servono fare i compiti in questa maniera, che tra l'altro i compiti spesso li fanno i genitori. Pensate che è stata lanciata una campagna, per esempio, contro i compiti proprio in questi giorni, che ha già raccolto 1200 firme. Grazie Alex Corlazzoli, maestro di scuola primaria, giornalista, blogger del Fatto Quotidiano. Noi, prima di andare in viabilità, vi parliamo della vicenda che riguarda Google, che ha minacciato, e per il momento è una minaccia, più che una minaccia è una certezza, vedremo se ci saranno spazi di trattativa, di andarsene con la sua sezione news, di togliere la sua sezione news dalla Spagna. Sentiamo. Giulia Saracinesca. Dal prossimo 16 dicembre in Spagna Google News non esisterà più. La reazione del gigante americano non si è fatta attendere. A fronte di un'azione, la legge sulla proprietà intellettuale approvata il 31 ottobre, ritenuta inaccettabile. Quella che è stata subito ribattezzata Google Tax impone agli aggregatori di contenuti di pagare gli editori per gli articoli indicizzati. Obbligo di pagare, ma anche obbligo di essere pagati. Così non è per esempio in Germania, dove una legge c'è, ma gli editori possono anche volontariamente non chiedere corrispettivi. Da qui accordi fra Google e gli stessi editori, anche ob torto collo, come nel caso del più grande Axel Springer. Gli articoli spagnoli comunque non spariranno da Google, c'è pur sempre il motore di ricerca, ma l'aggregatore non esisterà più, anche perché, spiegano dalla multinazionale, il servizio crea traffico per gli editori ma non ha pubblicità. Avvertiti tutti, anche il Parlamento europeo, che ha votato una risoluzione per lo spacchettamento dell'azienda. Andrea Biondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Wall Street al campanello di chiusura ha lasciato sul terreno perdite dell'1,5%, 268 punti per l'indice Dow Jones, che ha chiuso a 17.533, ben lontano dunque da quel livello di 18.000 che tutti pensavano potesse superare agevolmente. Cos'è successo? È successo che il prezzo del greggio è caduto del 4,5% in una giornata. Come mai questa caduta? Perché l'OPEC, che aveva già creato un po' di turbolenza il 27 novembre scorso quando aveva annunciato che non avrebbe ridotto la sua produzione, il suo output, ieri ha annunciato che si aspetta per il 2015 una domanda di greggio ai livelli minimi in 12 anni. E questo cosa significa? Che forse le economie non stanno andando così bene, soprattutto quella cinese, che ha fatto da traino a buona parte dell'economia globale. Ma non voglio dilungarmi troppo sulle questioni di mercato finanziarie, voglio invece parlarvi di una giornata importante che soprattutto qui a New York, devo dire, l'abbiamo vissuta con grande emozione per le celebrazioni alle Nazioni Unite, cioè la giornata mondiale dei diritti umani. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. 10 dicembre 1964 è stato il giorno in cui Martin Luther King ha avuto il premio Nobel per la pace. Ieri a Oslo, 10 dicembre, è stato consegnato il premio a Yousafzai Malala, questa ragazzina che voleva studiare, che ha aperto un blog contro i talebani che impedivano alle donne di studiare o volevano limitare la possibilità delle donne di studiare, e è stata oggetto di un attentato. Le hanno sparato un colpo in testa, è sopravvissuta e adesso, devo dire, è un simbolo di questa resistenza per l'uguaglianza. Non a caso ieri ci siamo confrontati con altri aspetti simbolici legati sempre ai diritti umani, ai diritti civili. Time Magazine, per esempio, ha pubblicato la copertina di Uomo dell'anno e l'ha dedicata a tutti coloro che combattono l'Ebola. E infine, vi dicevo, in America si è parlato di diritti umani e civili, ma diritti umani nei confronti dei prigionieri. Abbiamo visto che la CIA ha usato strumenti di tortura, c'è stato questo documento molto controverso pubblicato dal Senato che ha denunciato i metodi della CIA, metodi di tortura. Pochi giorni prima, polemiche in America invece per una questione interna: Ferguson, Staten Island, Michael Brown ucciso per strada da un poliziotto, Eric Garner anche lui ucciso per strada da un poliziotto. E in questa atmosfera che si è celebrata ieri alle Nazioni Unite, la giornata mondiale dei diritti umani, c'era anche il nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno ministro. Sì, buongiorno, buongiorno. Effettivamente è stata anche un po' un'emozione per me di intervenire alle Nazioni Unite proprio in questa giornata particolare, come avete ricordato. Come l'ha vissuta lei alle Nazioni Unite? Lei ha partecipato a una riunione dedicata ai paesi africani? Sì, nel quadro dell'anniversario di questo 10 dicembre, quest'anno c'è stata l'assemblea che ha lanciato una iniziativa decennale, diciamo così, per i diritti delle persone di origine africana. Quindi naturalmente c'è un risvolto storico, la condanna dello schiavismo e delle conseguenze dello schiavismo, c'è un risvolto di attualità, perché le vicende che avete appena ricordato, sia quelle di Ferguson sia quelle proprio di New York, hanno in un certo senso riacceso l'interrogativo sui diritti dell'uomo e sul razzismo. Questo è ovviamente particolarmente impressionante, paradossale, in un'America che per la prima volta nella sua storia ha un presidente come Barack Obama, non solo un presidente di colore, ma un presidente molto attento ai temi dei diritti umani. Siamo in una situazione da questo punto di vista, come accade nella politica e nella storia, di paradosso, che proprio a questo presidente degli Stati Uniti capita di attraversare un momento nel quale torna di attualità il tema dei diritti degli ex schiavi, per usare la terminologia che è stata usata in questa assemblea alle Nazioni Unite. Alla luce di questo, l'atmosfera com'era? Un'atmosfera tesa, un'atmosfera di protesta in questa riunione a cui hai partecipato? Ah, certamente in assemblea sono intervenuti degli intellettuali di Università dei Caraibi, degli esponenti di organizzazioni per i diritti umani che hanno anche molto severamente condannato il riemergere di scelte, di politiche, di atteggiamenti a loro avviso razzisti. C'è stato poi l'intervento di diversi paesi, tra cui il nostro, l'Italia più dialogante, e devo dire che la rappresentante all'ONU degli Stati Uniti, Samantha Power, ha con forza rivendicato anche le scelte dei governi americani, diciamo da Lyndon Johnson a Barack Obama. Qual è la sua sensazione? Che paese ha trovato? Perché poi era anche a New York, a parte le Nazioni Unite. Che paese ha trovato? Beh, l'America è sempre una straordinaria democrazia, anche quando il suo essere una straordinaria democrazia mette a nudo errori e comportamenti inaccettabili. Quello che colpisce del modo in cui si reagisce alle rivelazioni sui metodi di interrogatorio, sulle torture, eccetera, è che non c'è solo l'errore, la cosa inaccettabile che viene compiuta, ma poi c'è un sistema trasparente che ne parla, ci sono dei media che la raccontano, c'è una società democratica che reagisce. Questo in fondo è la grandezza di un paese democratico, quella di saper riconoscere e correggere i propri. Una potenza democratica che però è stata a sua volta oggetto d'attacco, perché non dobbiamo dimenticare l'attacco tremendo dell'11 settembre contro New York. Sì, ieri siamo anche stati a visitare questo nuovo memorial che è stato aperto da poco a Ground Zero, e insomma non c'è dubbio che non dobbiamo dimenticare. Quell'attacco ha segnato profondamente la storia degli ultimi 15 anni, ma non possiamo accettare che la reazione a quell'attacco abbia assunto le caratteristiche negative denunciate in questi giorni. Dobbiamo unirci contro il terrorismo, ma mantenendo le regole democratiche. Credo che questa sia l'intenzione del presidente Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me ancora in linea il ministro Gentiloni. Ministro, noi abbiamo questa tradizione di lanciare una canzone simbolica della giornata, o comunque una canzone americana. Lascio a lei la scelta se vuole farla. Cosa le viene in mente? We Shall Overcome, cantata naturalmente da John Biden. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno torna domani alle 13 con Maria Piera Ceci. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Airevo di G-Group, soluzioni mirate per costruire il presente. Info su ggroup.it. Vi ha presentato Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.